abbiamo deciso di fare un po' un salto, cioè dedicare un salto di qualità, dedicare uno dei nostri incontri al luogo dal quale, perlomeno in Emilia Romagna, sono partiti i missili e gli aerei che sono andati a colpire la Jugoslavia. Con 200 studenti siamo qui in un cinema, in un paesino vicino a Cesena, San Giorgio, subito attaccati alle basi. Quello che rimane un po' in ombra è un fatto di gravità incredibile, come è stato il bombardamento dei petrolchimici dell'ex Jugoslavia, in particolare il bombardamento di Pančevo. Questi bombardamenti, i missili, gli aerei partivano da qui, da Pesignano, e pensate che Pančevo è un petrolchimico delle dimensioni di Porto Marghera. A Porto Marghera sono morte 300 persone solo per fughe di polvere, fughe di vinilclono monomero. Pensate cosa possa essere successo quando un bombardamento ha colpito un petrolchimico che funzionava in quei termini come il nostro Porto Marghera. Per questo oggi abbiamo qui sia dei miei collaboratori, Federica Alessandrini e Gifkis Nedanovska, che hanno condotto in questi anni una rassegna stampa su quello che in Jugoslavia è apparso sul tema, e teniamo presente che c'è una forte censura su questi fatti anche da parte delle vittime, perché un bombardamento chimico rovina l'agricoltura, rovina le industrie, e gli abitanti hanno un interesse materiale a nasconderlo, perché a questo punto se la produzione agricola va a catafascio, anche loro non hanno il che mangiare. Le guerre che hanno questo contenuto pesante di contaminazione dell'ambiente, di danno sulla salute delle popolazioni, sono state definite guerre a orologeria, perché gli effetti sulla salute in termini di cancri, di malformazioni fetali, di tumori, hanno tempi lunghi, leucemie che possono covare per 10-15 anni. Pensiamo, per fare un caso, cosa vuol dire un bombardamento di un petrolchimico. Molto spesso le esplosioni leucemiche avvengono solo una decina d'anni dopo. Bene, su questi temi, soprattutto in relazione ai bombardamenti che la NATO ha operato non solo sul Kosovo ma sul resto della Jugoslavia, in Italia poco è rimasto. Qualche cosa, seppure benemerita, è stato sollevato anche da ambiti insospettabili, cioè da ambiti militari, per quanto riguarda le conseguenze dell'uranio impoverito. Ma perché? Perché dell'uranio impoverito, più in generale delle polveri che sono il portato di questi bombardamenti, all'uranio impoverito sono stati colpiti anche soldati italiani.